dove porti a fine dell'anno per recuperare quelli che vogliamo dire fare, come accade sempre, anche perché altrimenti non si riuscirebbe a finire il programma. Questo soprattutto per quanto riguarda Flaubert. E vedremo sulla base della disponibilità dell'aula, comunque ve lo comunicherò di volta in volta, faremo delle ore magari un po' più comode di queste, insomma, tra le 5 e le 6 del mattino, ore del genere, pure notturne, mezzanotte. No, sappiate che faremo delle ore. Dunque, l'altra volta eravamo al capitolo 18, se non ricordo male, ed eravamo a quel capitolo in cui Frédéric fa un gesto poco ambiguo, mi pare che questo fosse il titolo del capitolo, cioè tasta il posteriore alla Rosanetti, no? E lei, insomma, si mostra molto sconcertata, insomma, di questa mancanza di finezza di lui. Ma in effetti, magari un pochino potete chiudere, poco poco, tanto per dare un'idea, poco poco. Ecco, così va benissimo, grazie. Che è una specie di aria primaverile, in realtà una delle cose più interessanti di questo personaggio è il suo essere maldestro nel trattare le donne. Lo è naturalmente nei confronti di Madame Arnoux e lo è nei confronti di Rosalind. Ci sono dei uomini che riescono ad essere maldestri con qualunque tipo di donna riescano, debbano trattare. Rosanette è certamente uno dei più alti raggiungimenti estetici di Flaubert. Che cosa affascina Rosanette? Scusate, che cosa di Rosanette affascina Flaubert prima ancora che noi? La sua leggerezza, il suo non essere sostanzialmente una persona stabile su cui si possa benché minimamente contare. A molti uomini, ma non per un gusto di collezionismo, e nemmeno stretto sensu, e qui è la finezza, perché sia una sorta di cortigiana, di prostituta, una sorta, per stare ai nostri giorni, di Patrizia D'Addario, se ricordate il nome, ricordate soprattutto il nome del signore che si accompagnava a Patrizia D'Addario. No, no, no. Non è questione tanto di essere una mantenuta, è questione di essere, come si dice in francese, folâtre, cioè di essere pazzerellina, di essere in fondo leggera, anche i suoi sentimenti, ma tutto è vissuto in una carnalità suadente e fascinosa che si contrappone alla carnalità invece assolutamente poco leggera invece di Madame. Vi sono donne pesanti e vi sono donne leggere. Questa distinzione della vita è fondamentale. Vi sono anche uomini pesanti, occorre pure dire, e uomini leggeri. E questo mi fa pensare, in effetti, a una nuova possibilità di distinzione antropologica umana, insomma, il pesante e il leggero, no? Vi sono delle ragazze pesanti, ecco, quelle con cui stando 3 minuti insieme hai la sensazione di esserci stato un mese. Ci sono persone leggere che ti danno l'idea in fondo che la vita sia possibile viverla, possibile viverla. Da qui è attratto Frédéric, ma il problema è che Frédéric non ha una sua psicologia ben definita, è romantico, ma anche attratto da cose carnali. Come vi ho detto, è l'irresoluto, è l'eroe moderno. È l'eroe moderno, è l'uomo non del relativo, non del relativo, ma è l'uomo dell'irresolutezza, è l'uomo dell'irresolutezza. E forse dell'età moderna così irresoluto, perché pensavo a un grande libro del primo Ottocento che sarebbe opportuno che voi leggeste, poi un libro di facile lettura ed è breve, e che è l'Adolf, se qualcuno di voi lo conosce per caso, lo conosce qualcuno, l'Adolf di Benjamin Constant, ecco, in cui si dice quello è il primo eroe romantico, è uno che ama una donna, cerca una donna, l'ama, lei la riama, e poi però succede che non l'ama più. E come si fa quando uno deve stare con una persona con cui si è stabilita una liaison forte e tu non l'hai più? Che si fa? Lo si lascia, lo si molla, la si lascia, la si molla? Ne passi facile, nel senso che ci sono poi degli attaccamenti, il lavoro è attaccamento, quindi al di là dell'attrazione mancante, quante persone, ragazze della vostra età, mi hanno detto i suoi baci non mi dicono più niente, si rimane insieme. Nel caso della Dorothy Constant, libro bellissimo, lui matura, tra l'altro questa è una delle domande che faccio sempre agli esami quando parlo della letteratura in generale, altro e più, lui matura un sentimento di pietà e quindi sta con questa donna per pietà. Però vedete, la pietà è un sentimento ben definito. La differenza con Frédéric Moreau è proprio questa, che lui invece ha sentimenti contraddittori e tutto sommato al costrutto indefiniti. Flaubert si trova benissimo a descrivere gli stupidi e a descrivere i leggeri come i pesanti. È un descrittore di realtà che ha costruito il romanzo moderno, come nessuno. È un personaggio leggero, dunque Rosanetta. Adesso vediamo questo piccolo cenno su Rosanetta che viene fatto, e è il capitoletto 19, che voi trovate 1, 2, 3, 3 pagine dopo, ed è il Faisait un beau temps âpre et splendide. Quant'è? 173. Titolo del capitoletto è Le pastarelle. Lo diciamo un po' alla romana, noi che siamo romani, forse voi non sapete, non essendo romane, che cosa sono le pastarelle. Noi adesso vediamo una domanda campione, se lei lo sa cosa sono le pastarelle? Ah, lo sa. Anche lei lo sa cosa sono le pastarelle? Sono i dolci, sono i vigneti. In senso scelto? No. Puoi parlare con un accento napoletano? Ah no, ma parlate con un accento campano. Cilentano. No, questi non sono né duri né lunghi. Sono i dolcetti, sono le pastarelle. Ecco, quelle che si comprava una volta dopo la messa nelle famiglie borghesi la domenica, i vassoi delle pastarelle. Allora, sentite questo show. Faceva un bel tempo, aspro e splendido, il sole si abbassava e qualche vetro di finestra della Cité brillava di lontano come delle piastre d'oro, mentre da dietro a destra la torre di Notre Dame si profilava in nero sul cielo blu, mollemente bagnato all'orizzonte in vapori grigi. Il vento soffiò e Rosanetta, poiché avendo detto Rosanetta che aveva fame, entrarono alla pasticceria inglese. Giovani donne coi bambini mangiavano in piedi contro un banco di marmo dove si ammucchiavano sotto campane di vetro i piatti dei dolcetti. Rosanetta inghiottì due tartine alla crema. Lo zucchero in polvere le faceva dei baffi ai lati. lei tirava fuori il fazzolettino dalla manica e il suo viso rassomigliava, sotto il berretto di seta verde, una rosa sbocciata fra le foglie. Questo mio abile piccolo passo, vediamo questo tempo, un tempo aspro e splendido. Splendido come una giornata come questa, pare che oggi sia nuvoli il tempo. Però oggi non è un tempo aspro. Un tempo aspro e splendido è evidentemente un tempo freddo, un tempo di prima primavera o di inverno, aspro e splendido. Ma sentite che questo aspro e splendido ti danno già questi aggettivi che indicano il tempo, ti danno una sorta di orgoglio della vita. Mi sentite bene? Cioè mangiare le pastarelle in un giorno umido, piovoso, caldo o afoso è meno significativo. Mi capite? Ma invece se il tempo è frizzante, quello che in inglese si chiama chilly, se il tempo è frizzante e splendido, c'è tutto una specie di abbracciare la vita in questo modo. I vetri di lontano, come capita, i vetri, siccome il sole ci batte sopra, i vetri sono come delle piastre d'oro per il sole. Notre Dame si profila in nero sul cielo blu, sul cielo blu. Volevo dirvi una cosa, piccolo dettaglio per anime fini e sottili, sono pastarelle di Parigi, perché voi dite, ma le pastarelle sono dovunque, ma le pastarelle, peraltro ottime, che io posso mangiare a Grotta Ferrata, sono diverse dalle pastarelle di Parigi, non solo perché sono fatte in modo diverso, ma perché queste pastarelle hanno come il profumo dell'aria di Parigi, no? Ecco, se voi, un profumo, per esempio un eau de toilette, che voi mettiate, ecco, lei usa dei profumi, sicuramente sì, ma se questo profumo viene per esempio dall'ananina, lo fa? No, ma no, veramente, riflettiamo su queste cose, perché sennò non si capisce un tubo di letteratura. Senti che questo profumo viene dalla stazione della metro dell'ananina, lì c'è uno stabilimento che fa questi profumi. Allora, il suo ragazzo gli dice che meraviglioso profumo sensuale hai quest'oggi. E allora lei dice, sì, questo viene dall'ananina. Cioè non sapevo, dice il suo ragazzo, che ci fosse uno stabilimento di profumi, adesso lo sai, adesso lo sai. Ma vediamo che invece il suo ragazzo dice che meraviglioso il profumo sensuale, sei un'altra donna oggi, tra l'altro tra l'altro è pure un cafone, perché allora sembra che normalmente fai schifo, no? Il profumo viene dagli Champs-Élysées, è tutta un'altra cosa. Quindi capisci, anche la stessa cioccolata, se il pasticcino di Parigi, semplicemente per una nostra immaginazione, noi lo immaginiamo più elaborato, più fine, ecco, più vissuto dai cuochi che l'hanno prodotto con consapevolezza della vita, di quanto possa avvenire nel pasticcino di Nemi, Marino, Frascati o no? È chiaro il punto, quindi non è irrilevante che ci sia la Notre Eiffel, cioè la Notre Dame, eccetera, eccetera. Va bene, soffiò il vento. Ecco, vedete, la grande arte è fatta di questa roba qui. Volevo farvi una piccola premessa, una proposizione incidentale su un discorso che non c'entra niente con questo. Ma dal momento che vi ho parlato di grande arte, tenevo a farlo. Siccome ho ricevuto una lettera da parte di un ragazzo che ha fatto l'esame con me 2 anni fa e vive in Inghilterra, e mi dice che io gli ho schiuso la vita, la letteratura, dopodiché ha detto che non sei più laureato, per cui io avrei dovuto fare tutti gli altri esami e allora si sarebbe laureato. E quindi se n'è andato via dicendo che insomma è stato molto gentile. Allora mi ha fatto pensare alla grande arte. Tutti quanti sapete di questo libro Gomorra di Saviano, del nostro avanto Presidente del Consiglio, che ha detto che questo libro ha degradato l'immagine dell'Italia, e lui ha risposto penserà due volte prima di scrivere ancora la sua Mondadori, cioè del proprietà di Berli, perché non si sente più libero. Allora l'editore, cacandosi sotto la narina Berlusconi, ha detto: no, ma come, qui c'è solo una critica. E lui ha risposto in modo molto bello, ha detto: no, non è una critica, è un tentativo di mettere a tacere qualcuno che dice delle cose su una realtà criminale come la Rambo. Questo è il piccolo. Il libro è stato pubblicato in 46 paesi. Bene, ha venduto finora 6 milioni di copie. Allora, gente nel selvaggio intellettuale attuale, gente di ogni parte, ha detto, dice: ah, Roberto merita il Nobel. È probabilmente vero, sotto un certo riguardo. Allora, io volevo semplicemente dirvi la mia opinione, perché io sono pagato, come sapete, in modo anche adeguato, posso lamentarmi, è al massimo della carriera, quindi è ovvio che andare bene. Sono pagato per dirvi le mie modeste opinioni. Modeste non sono mica tanto. Punto primo. Saviano scrive bene, anzi forse molto bene. Punto secondo, la cosa di cui lui ha scritto ha un'importanza storica, dirompente. Attraverso il suo libro ha fatto sì che venissero messe le mani sulla più potente, forse attualmente, organizzazione criminale di questo paese e ha mandato all'ergastolo un numero notevole di criminali. Punto secondo. Punto terzo. Con l'arte tutto questo non c'entra niente. Per avere le idee ben chiare. L'arte è un'altra cosa. È una cosa che può non avere alcun successo, che può non avere alcuna importanza, che può essere scritta per nessun lettore. Le cose, chi segue il corso su Mallarmé, le cose di Mallarmé non sono nulla dal punto di vista storico e sociale, però sono arte. Va bene? Madame Bovary è un libro che ha avuto un grande clamore. Ciò non di meno è un grande libro, chiaro? L'amante di Lady Chatterley, lì qualcuno lo conosce, questo libro di T.H. Lawrence, è un libro che ha avuto un grande clamore perché chiamava cazzo cazzo, proprio in quell'epoca, insomma, fica fica, eccetera, eccetera. Non è un grande libro. Gomorra ha avuto un'importanza enorme, e l'autore, a parte il fatto che è sotto scorta, eccetera, è degno di ogni rispetto per il suo coraggio umano, ma non è un grande libro. Allora, che cosa bisogna fare, cercare di fare nell'università? Questo vale più di tutti gli esami messi insieme. Arrivare alla fine dell'università, nei 5 anni, insomma un anno l'hanno messo in più, in condizioni di poter andare in una libreria e di riconoscere i grandi libri dai libri non grandi. Se riuscite a far questo, io sono riuscito con generazioni di persone a farlo fare, avrete concluso bene i vostri studi. Questo è quello che conta. Vedete, insomma, Vittorio Sgarbi non dovete toccare. Alcune cose lo sapete già da voi, per la verità, lo sapete già da voi. Fabio Volo, non dovete toccare. C'era una tizia al cinema, l'altro giorno ero al cinema, che dice: ah, io ho letto tutti i libri di Fabio Volo. Ma sono persone che bisogna eliminare, sono delle camere a gas. Capito? Ecco. Saper distinguere è estremamente importante, perché la cultura è una cosa sola. Saper scegliere, saper distinguere. Ricordate questa impressione, scrivetevela, è inutile dire, a capo del letto. La cultura è saper scegliere, saper distinguere. Questo è un grande libro, invece, a cui stiamo. Libro che ha avuto scarso successo, diversamente dalla Bovary, libro solo. Libro so, e più ci si torna sopra nel corso degli anni, più si scoprono le bellezze. Qui stiamo vedendo una scena di una ragazza che abbiamo visto nella sua leggerezza fascinosa, molto più fascinosa della pesantezza di Madame Arnaud, che si impiastriccia la faccia con delle tartine. E qualche modo la mascherano, ma non dimenticate che questo personaggio ci è già apparso mascherato, perché era in un ballo in costume che noi l'abbiamo veduto, vi ricordate? E come era vestita? Era vestita da maresciallo, no? E questo travestirsi, adesso da bambina che si è sporcata la bocca, prima da maresciallo, indica una sorta di leggerezza della vita, capite? Chi è leggero si traveste, gioca con se stesso. Madame Arnoux travestita non sarebbe pensabile, evidentemente. Non sarebbe pensabile. Oh, mi pare che abbiamo detto quello che si doveva dire e adesso passiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 al capoverso des femmes le remplissaient les unes près des autres. È il capitoletto 182, è il capitoletto numero 20 e lo intitoliamo Belle donne sugli belle donne sugli sgabelli. Belle donne sugli sgabelli. Siamo nella casa di Madame d'Ambroise. Vi ho già accennato a questa terza donna, che è donna di bella posizione sociale. Erano duchi i d'Ambroise, poi hanno rinunciato al de per via della rivoluzione, con raro senso di opportunismo, e questa donna bella, non più giovanissima, sarà la terza donna del romanzo, la terza donna del romanzo, perché una è inaccessibile, l'altra è fin troppo accessibile, ma direi che è accessibile un po' a tutti, e questa potrebbe essere accessibile avendo quello che voi chiamate il soldo, potrebbe anche rappresentare un buon partito, diciamo così. Se non che è sposata, se non che capiterà qualcosa, cioè che il marito e una vedova col soldo, no? Non so se a voi mai è capitato le vedove sono poi vogliose, e se no perché vogliono ristabilire in qualche modo una loro vita, e quindi se hanno il denaro diventano poi concupibili. Come andrà costei? Questo lo lasciamo con un punto interrogativo. Vediamo però questa scena strana di donne che sono riunite in questo salotto. È semplicemente una descrizione delle donne di questo salotto, che adesso leggiamo. Delle donne riempivano questo salotto le une vicino alle altre, su seggiole senza schienali. Le loro lunghe gonne, gonfie intorno ad esse, sembravano flutti da dove nel loro corpo emergesse, i seni si offrivano agli sguardi nella scollatura dei corsetti. Quasi tutte portavano un mazzetto di viola in mano. Il tono opaco del loro guanti faceva risaltare la bianchezza umana delle loro braccia. Delle frange, delle erbe pendevano loro sulle spalle e si credeva qualche volta in certi brividi che il vestito stesse per cadere. Ma la decenza del viso temperava la provocazione del vestito. Parecchie anzi avevano una placidità quasi bestiale, e quel raggruppamento di donne seminude faceva pensare all'interno di un harem, e venne in mente al giovanotto un paragone più grossolano. In effetti ogni sorta di bellezza si trovava lì, inglesi dal profilo d'acquarello, un'italiana i cui occhi neri folgoravano come un Vesuvio, tre sorelle vestite di blu, tre normanne fresche come meli d'aprile, una alta, grande, rossa, con una parure d'ametista, e i bianchi scintillini dei diamanti che e il fulgore dolce delle perle che accompagnavano i visi si mescolavano allo scintillio degli anelli d'oro, ai merletti, alla cipria, alle piume, al vermiglio delle piccole bocche, alla madreperla dei denti. Il soffitto arrotondato in cupola dava al boudoir la forma di un cesto e una corrente d'aria profumata circolava sotto il battito dei ventagli. Questa scena mirabile la gustiamo in tutta la incredibile sensualità e misoginia di Flaubert, perché è opportuno a questo punto dire che in questo grande amore della donna, appunto, che Flaubert è stato chi insieme a Tolstoi ha descritto in assoluto nella storia della letteratura mondiale meglio la figura femminile, ma direi poi lui sostanzialmente l'ha descritta con un senso disperato di umorismo che evidentemente Tolstoi non aveva. Queste donne sono viste anche con spirito di occulto disprezzo, sono viste come da Flaubert, questa è un'espressione che coniai molti anni fa e che ebbe una straordinaria fortuna tra gli studenti, e quindi me la sono trovata immancabilmente a ogni esame su Flaubert mi sono trovato questa espressione che avevo coniato, e le donne vengono viste come anche come carnaccia da letto. Questa espressione l'ho coniata circa 20 anni fa, ma mi ha perseguitato nel corso del tempo perché evidentemente è piaciuta a sensibilità vuoi maschili che femminili. Con l'espressione carnaccia da letto ho detto tutto. Come sono queste donne? Queste donne sono vicine le une alle altre, e qui è la trovata fantastica, su seggiole che non hanno lo schienale, quindi sul gabelli. Ma come sarà una donna su una seggiola normale e una donna su uno sgabello, te lo dice lei? Più rilassata, molto bene. Deve stare impettita, esattamente. Ecco. Sapete che un tempo le signore della buona società, dell'alta società, se stavano con una tavola, con una seggiola, con la schienale, con lo schienale, era rigorosamente vietato appoggiarsi. Mi ricordo che nella mia famiglia materna aristocratica, mia madre gli aveva insegnato a star seduta sulla seggiola, per nessun motivo doveva appoggiarsi alla seggiola, per nessun motivo. E lo sgabello ti costringe a stare dritte e impettite, quindi ci sono delle donne che sono dritte e impettite, sono donne rappresentate nel fulgore della loro femminilità, perché subito dopo si dice che hanno delle lunghe gonne che sono gonfie intorno ad esse. Queste gonne gonfie è come se fossero una metafora della parte inferiore del corpo femminile, che è naturalmente portata alla rotondità per la gioia degli occhi sensuali degli uomini. È chiaro il concetto? Lo esemplifico? No, mi pare abbastanza. Queste gonne gonfie sembravano dei flutti da cui la vita emergesse, la vita, cioè il busto emergesse. Badate che queste gonne erano spesso gonfie, il di sotto era gonfia, sapete che le donne dell'Ottocento portavano anche dei falsi sederi. Ma perché? Proprio perché il vitino da Vespa potesse emergere meglio, e quindi la femminilità potesse essere messa in evidenza. E a proposito della sensualità della descrizione, non basta soltanto il dessous che viene descritto, ma anche il dessus viene descritto adesso, perché i seni si offrono e si parla di questa ampia scollatura dei corsetti. Se adesso una donna così, si suppone giovane, perché naturalmente per una donna vecchia sarebbe abbastanza osceno vederne le, individuarne le forme del corpo. Noi la mettiamo su uno sgabello, noi vediamo che ha una sua rigidezza che in qualche modo la umilia. E questa parola umiliazione è molto importante, perché è costretta a mostrare, o vuole mostrare, le sue rotondità in basso e in alto, stando dritta, appunto impalata, sullo sgabello. Va bene? Andiamo. Ad aggiungere ridicolo alla situazione c'è il fatto che ognuna di costoro ha un mazzettino di viole in mano. Perché devono avere? Ora, noi possiamo immaginare che molte donne siano insieme da un anno, ma perché devono avere tutte il mazzettino di viole, no? È come un essere eguagliato, non sono più esseri umani, perché mettiamo che una non avesse il mazzettino, l'altra sì, l'altra avesse, che so, una rosa, no? Allora, così sono dei pupazzetti. Lui ha messo il mazzettino di viole a ognuno proprio per dar l'idea del loro carattere burattinesco. Vediamo adesso il corpo della donna. Le donne belle sono bianche, secondo una lunga tradizione. Ecco, le donne nere piacevano a Baudelaire, ma Baudelaire si considerava ed era considerato un pervertito. Le donne belle sono emblematicamente bianche. Il bianco qui è messo in evidenza, il bianco delle braccia, dal fatto che i guanti, sapete che le signore di un tempo avevano sempre i guanti, naturalmente, no? Guanti che potevano arrivare anche a metà braccio. Questi guanti sono color crema, colore tommaso, cioè tono opaco, e quindi la bianchezza viene messa in risalto. Ma guardate la finestra, se questi guanti fossero stati neri, per capire la letteratura bisogna sempre dire, ma se fosse stata diversa questa soluzione, quale effetto ne sarebbe venuto? Il bianco è vero che sarebbe venuto più in risalto, se quanto era nero, ma ci sarebbe stata anche, come dire, una durezza nel contrasto nero-bianco, mentre qui si vuol dare l'idea proprio di una carnalità suadente, no? La biancheria intima, la biancheria intima, quando tu, delle, di voi giovani donne, ha vari colori, insomma, uno dei colori naturalmente più cercati è il nero, i mutandini di pizzo nera. Una volta una ragazza che era di aspetto abbastanza con cui ero in intimità, se non abbiamo mai fatto una confidenza del genere, apro e chiudo evidentemente, aveva un corpo molto carino, ma insomma certamente non con delle forme esuberanti. E a mia richiesta su quale fosse la sua biancheria, che per ripetere eravamo in rapporti più intimi, se no non mi sarei permesso di andare a chiedere, non è che vado in corridoio a chiedere un problema. Quindi sai, io non posso portare la biancheria nera, la porto bianca, perché sono in una condizione, come dire, l'ideale del mio corpo, credo fosse anche vergine, e quindi insomma sarei fuori posto, no? In effetti, quando noi vediamo quelle biancherie nere, traforate, eccetera, abbiamo una certa immagine della donna, ecco. Ma se vediamo la biancheria bianca ci sembra più dolce, più ci viene più incontro in qualche misura, è più accessibile. È chiaro il concetto? Quindi è importante che i guanti siano color crema, perché il contrasto non è molto forte, e quindi queste donne possono essere viste in modo più suadente. In cambio, momento, avevano erbe addosso. Ora, io francamente non credo che quando voi andate a delle feste vi mettete dell'erba, dell'insalata addosso. Però dovete pensare che allora c'erano questi ornamenti che potevano anche essere vegetali, adesso non l'insalata, no, ma insomma c'erano questi, e quindi avevano queste cose addosso. Ma la cosa più importante è che parla poi dei vestiti, e dice che questi vestiti sembrano cadere a ogni momento, estremamente sexy, donne invitanti, donne morbide con il vestitino, sapete quei vestiti che sono degli sputi addosso, che possono cadere a ogni momento. Benissimo. il viso di queste donne era decente, era onesto. Cioè era già talmente offerto allo spettatore il resto del corpo che il viso doveva essere decente. Ma sapete, nulla è più erotico che il contrasto fra un corpo che si offre e la decenza del viso. Non so se voi siete esperti di queste cose, no? Perché se io vedo un corpo femminile che si offre, ma al tempo stesso un viso sciagattato, sciamannato in opere di espressione di volontà, non ho alcuna. Invece vedere la professoressa in mutandine è cosa molto più avvincente, no? Vedere una mignottona in mutandine fa molto meno effetto, ma vedere la professoressa, anzi, di quale materia? Perché sei più sexy di tutti, dai, dai, dai. Oh, bravissimo! Infatti perché il ministro dell'università e dell'istruzione, ahimè, ai noi, terribile, uful, orribile dictu auditucue, Gelmini, suscita le fantasie erotiche di molti, perché ha tutto questo aspetto da maestrino, per cui ci sono torme di giovani che sono disposti a fornire il loro bando. Queste donne hanno una placidità nel viso, hanno una placidità nel viso e sono sugli sgabelli. Ci siamo finora? Belle donne che si offrono ma con il viso decente, tutte rigide sugli sgabelli. E qui ce n'è una di Flaubert, tipica, perché dice che gli suggeriscono l'interno di un harem, però gli suggeriscono un paragone anche più grossolano. E qual è? È quello di donne che stanno al gabinetto. È quello di donne che stiano evacuando tutte insieme nello stesso momento. Rendo l'idea? Sedute sul loro sgabello cesso. Questo per umiliare ulteriormente la donna. Vediamo come sono. Allora c'è un inglese e guardate come lui, come sempre, costruisce dei personaggi da commedia dell'arte, cioè dice quel che ci aspetteremmo di sapere. Allora, attenzione, come vediamo, lo chiedo a lei, signorina, lo chiedo a lei, un inglese è l'emblema della sensualità o no? No. No, c'è anche il famoso, ho detto, niente sesso se è inglese, lo sapete. Dunque. Un inglese è l'emblema di che cosa? Una donna inglese. Di che cosa è l'emblema? Di sterilità. Austerità, sì, ma c'è un... com'è una donna inglese? C'è un film che vi diceva, una romantica donna inglese. Sono romantiche le inglesi, eh? Sono romantiche. Standard aveva dato delle definizioni molto precise sulle donne italiane. Diceva che le napoletane erano per esempio prontume, le romane erano pronte al coltello, le napoletane erano sensuali e fedeli, le fiorentine erano attaccate al soldo, uomo ricco vici ficco. Ecco, diciamo queste cose qui. Poi, se tu pensi alla sensualità, ti viene in mente una tedesca? Difficile, una tedescona, già il linguaggio, ma se ti pensi a una spagnola, cosa ti viene in mente? Flamenco, cosa del genere, eh? Capito? Come? Cado, la sensualità. Cioè, flamenco. Se vedi una greca, che cosa hai in mente? È una sensualità da madre terra, è come se tu andassi a letto con le origini dell'universo, capisci? Vai a letto con il Big Bang, insomma, sostanzialmente con una greca, capisci? Queste nere, così. Irene Papas, l'attrice, non so se qualcuno di voi è presente ancora, eccetera. Quindi l'inglese è tenera, ha un profilo da keepsake. Il keepsake, voi forse l'avete visto ancora qualche volta, sono quegli album con le dediche, con i ricordi che si mettono per gli ospiti, no? In certe case, per cui quando l'ospite è stato in casa, lascia un pensierino. Io sono stato afflitto nella vita da cose del genere, perché ero sposato un inglese che aveva amici inglesi, quindi ogni volta dovevo mettere un pensierino come sono stato felice di stare qui in casa, di prendere, di mangiare questo splendido porridge, eccetera, eccetera. Oppure devo lasciare, ah, ma tu sei un letterato, lascia qualche verso, mi sono sempre rifiutato di lasciare il verso. Quindi keepsake però vuol dire anche acquarello, acquarello. Poi c'erano delle donne, c'erano italiane. Allora, il luogo comune, com'è l'italiano? Dal punto di vista erotico, com'è? Forza, com'è? Guardate, è così, nell'immaginario popolare, no? L'immaginario popolare, chi è quella occidentale? Com'è l'italiana? Che prosperosa è una... Dica occidentale. Comunque, qui c'era un'italiana i cui occhi neri folgoravano come il Vesuvio, perché all'estero, capite? Il Vesuvio è una delle cose dell'Italia. Si pensa che l'Italia si pensava, ma adesso si pensa che l'Italia si è fatta di mandolini, Vesuvi. Gli occhi folgoravano come il Vesuvio, no? Io ho conosciuto infiniti italiani con gli occhi completamente spenti. Ma comunque, ma questo è un luogo comune che ci parla. Di fronte al luogo comune noi ridiamo, sentiamo l'umorismo. O c'erano delle normanne, fresche le normanne, come sono, sembrano stupide. Ora magari le normanne sono intelligentissime, ma tre normanne insieme sembrano quasi tre civette sul comodo, sapete? Che facevano all'amore con la gatta della figlia del dottore. Io ho imparato. Tre civette sul comodo. Cosa ha detto con la gatta? Bambabà, Cicicocco, tre civette sul comò e faceva con l'amore con la famiglia e la gioia. Tre normanno, guardate la definizione del tre, capisce come se fosse, se tu vai a comprare tre inchietti di insalate, come se fossero banalizzate dal numero 3, capito? Tre italiane, tre normanne fresche. Quando una persona è scema, dice ah, però è fresca, no? L'unica cosa che ha è fresca. Poi c'era una grande rossa, cioè l'unica cosa che veniva fuori di costei è che aveva i capelli rossi, come l'ametista, eh? E poi c'erano piume, penne, eccetera, eccetera, e c'era il vermiglio. Il vermiglio, e qui vorrei cercare di essere estremamente delicato su questa cosa qua, estremamente delicato, ma non so se ci riesco a essere adeguatamente, perché qui lo scemo è lì, e non è inventato, è qua, avete capito? Perché parla di piccole bocche? Perché erano molto composte queste signore, no? Le donne di strada hanno dei bocconi giganteschi, no? Pensate, non lo so, a certe cantanti, no? I Mazzanicchi, quelle con quelle bocche enormi, gigantesche, eh? No, no, assolutamente, era per un esempio, così, insomma, ma una signora composta ha la bocca a, come si dice, no, questa è una cosa che si dice, non è, a culo di pollo. Ma si dice culo di pollo. Perché con un bocco così sembra di essere più serio. Solo che queste piccole labbra fanno pensare anche ad altre cose scene che non dico e che lascio alla vostra immaginazione, che lascio alla vostra immaginazione, unita naturalmente alla madre perla dei denti. Ecco, perché se in questa bellezza avessimo dei denti, attenzione, gialli, coperti dal tartaro, negli interstizi delle verdurine che si sono depositate dopo un pranzo, tutto questo cadrebbe. Ma vedete come il ritratto è perfetto nel segno della beffa, dell'umorismo, eh? E lì, in questo ambiente, circola